La politica alla prova. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla postazione di Radio 24 a Montecitorio. E buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta. E apriamo ricordando che il governo ha varato il decreto legge che sospende la rata di giugno per l'IMU, ma solo per le prime case, e poi deducibilità per le imprese su capannoni e similari, rifinanziamento della cassa integrazione in deroga per 1 miliardo entro agosto. Inoltre vi sarà una riforma più ampia della tassazione sulla casa. Ricordiamo gli sms per i nostri ascoltatori, 349-238-6666. Insomma, primi passi per un governo di larghe intese, Elisabetta. È proprio così, Vincenzo. Ricordiamo che Berlusconi voleva lo stop all'IMU e il PD ovviamente il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga, ma di tutto questo parlerà tra poco il nostro vice direttore Sebastiano Barisoni in Focus Economia. Noi ci concentriamo sulla politica, Vincenzo, e sulla magistratura, perché fa molto discutere la richiesta dei PM di Palermo di inserire tra i testimoni nel procedimento Stato mafia addirittura il capo dello Stato Giorgio Napolitano, quello del Senato Piero Grasso e l'ex presidente Ciampi, insomma i vertici dello Stato. Valuterà la Corte il da farsi. Sentiamo cosa ci ha detto intanto Donatella Ferranti, PD, presidente della Commissione Giustizia della Camera. Ma si tratta di una strategia processuale dei pubblici ministeri su cui credo che sia meglio non entrare. Valuterà il giudice ammetterà le prove e ne valuterà la rilevanza. Indubbiamente si tratta delle più alte cariche dello Stato, in particolare con riferimento appunto al presidente Napolitano, quindi insomma devono essere delle testimonianze indispensabili e assolutamente utili al processo, questo a mio avviso, ma insomma non sono io a dover valutare. Ma allora è in atto uno scontro tra magistrati, magistratura, diciamo così, inquirente e politica, come dice poi ogni volta Berlusconi? Ma no, io ritengo appunto che non assolutamente non si deve valutare questo episodio in quest'ambito, insomma lasciamolo, no? Come per Berlusconi, lasciamolo nell'ambito del processo e facciamo appunto che i giudici valutino al meglio la rilevanza di queste testimonianze ai fini del decidere. Però insomma forse facciamo meglio a non fare questa... Insomma, io non conosco le carte, quindi dico, questa lista testi mi auguro che sia stata adeguatamente ponderata. E questa era Donatella Ferranti del PD. Quanto ci scommettiamo che non cambieranno la legge elettorale? Ci scrive Marco che dice sono tutti ciarlatani. Legge elettorale, Vincenzo? Eh sì, e c'è proprio una novità sulla legge elettorale. La Cassazione rinvia infatti il porcellum alla Corte Costituzionale. I giudici della Suprema Corte bocciano il premio di maggioranza alla Camera e al Senato ed esprimono dubbi sulle liste bloccate. Cosa succederà quindi adesso in poi qui in Parlamento sulla legge elettorale? Lo abbiamo chiesto al capogruppo del PDL alla Camera, Renato Brunetta. Si è trovato un percorso. Il percorso è questo: intanto si fanno partire le riforme costituzionali con i meccanismi che si definiranno il 29 tra Camera e Senato. C'è una, come dire, clausola di salvaguardia, chiamiamola così, che è quella sulle prescrizioni della Corte Costituzionale, cioè una mini riforma della legge elettorale, quella che è stata chiamata il safety net, cioè la rete di sicurezza, quindi una sorta di minimalismo di riforma della legge elettorale all'occorrenza, se dovesse servire a settembre-ottobre, perché sennò il rischio sarebbe quello, magari c'è una crisi non risolvibile, però c'è una legge elettorale non utilizzabile perché è dichiarata incostituzionale. Quindi cambiamo subito in maniera minimalista rispetto alle prescrizioni della Corte Costituzionale per essere pronti se dovesse servire, ma nel contempo facciamo le riforme costituzionali e sulla base delle riforme costituzionali costruiamo la legge elettorale coerente con le riforme costituzionali che hanno bisogno di un anno e mezzo per essere portate a termine. È normale che un capo dello Stato si presenti come testimone? Non è normale che si facciano le intercettazioni come sono state fatte sul capo dello Stato, non è normale che il capo dello Stato abbia dovuto investire la Corte Costituzionale per portare alla distruzione queste intercettazioni, non è normale che si intercetti il Presidente del Consiglio come è stato intercettato Silvio Berlusconi nella vicenda di Arcore, tutto questo non è normale, pertanto come abbiamo detto noi da tempo occorre una riforma del sistema delle intercettazioni, degli abusi delle intercettazioni, e occorre anche una nuova regolazione dei poteri dell'ordine giudiziario. E questo era Renato Brunetta. C'è chi ci chiede se tolgono l'IMU per i fabbricati agricoli, ci sta una sospensione per i fabbricati rurali. Intanto, altro tema all'ordine del giorno, l'omofobia. Per il Presidente del Senato Piero Grasso occorre fare un riconoscimento dei diritti degli omosessuali, ma Grasso ha parlato anche degli omofobi. Sentiamo cosa ha detto. Sono veramente e umanamente preoccupato per gli omofobi. Una corretta educazione su questi temi la dobbiamo fare, soprattutto per loro. Per chi soffre questa presunta fobia, per chi vive male, sopraffatto da un'irrazionale paura, dal terrore di uscire di casa, dall'ansia di avere tra i compagni di scuola, di lavoro, tra i suoi amici, i suoi familiari, una persona omosessuale. Diciamocelo, sono cittadini meno uguali degli altri. Sono chiusi nel loro guscio, nel loro cerchio di amicizie, temono i viaggi all'estero, le feste, gli studentati all'università, gli spogliatoi delle palestre. È un problema sociale che dobbiamo affrontare davvero, da subito, a partire dai più giovani. Dobbiamo farlo insieme, le istituzioni con le associazioni. Liberiamo gli omofobi dalle loro paure. Vivranno meglio, vivremo meglio tutti. Grazie. E torniamo ai provvedimenti del governo, vi è anche il taglio del doppio stipendio dei ministri già parlamentari. Sentiamo allora il vicepresidente della Camera 5 Stelle, Luigi Di Maio. È un ammiccamento al Movimento 5 Stelle, ma non in quanto tale, ma a tutta quella parte di cittadini che si è scocciata di vedere doppi incarichi, doppi stipendi. Io faccio il vicepresidente della Camera, ho rinunciato alla mia indennità di carica tempo addietro, sono circa 4.000 euro al mese, e mi domando anche come si possa fare ottenere un'altra carica contemporaneamente mentre si fa il parlamentare. C'è gente che fa il sindaco e il parlamentare in questo momento, ma credo che non riesca a fare bene nessuno di tutti e due i lavori. Quello che ha annunciato Letta è sicuramente un segnale, però c'è ancora molto da fare sugli stipendi dei parlamentari e anche dei ministri. Teniamo presente che chi è ministro in questo momento e non è parlamentare percepisce lo stipendio da ministro, ed è uno stipendio molto elevato rispetto alla media europea degli stipendi medi dei cittadini e dei parlamentari. Oggi Beppe Grillo è tornato ad attaccare, ha detto Berlusconi dovrebbe andare in galera, non ci va perché PD e PDL si proteggono. Al di là del fatto di Berlusconi in galera, una cosa è chiarissima, l'abbiamo portata alla luce del sole noi con questa legislatura, ma andava avanti da anni, che PD e PDL negli anni si sono sempre protetti sulle cose importanti e hanno finto di combattersi. Ora ci sarà una prova della verità nella giunta per le elezioni del Senato, quando sarà posta la questione di ineleggibilità di Silvio Berlusconi per conflitto di interesse, e vedremo il PD cosa vorrà fare. Riuscirete ad avere la presidenza della vigilanza RAI? Sicuramente riusciremo ad avere la vigilanza RAI, anche perché se non l'avremo ci troveremo ancora una volta di fronte alla situazione che conferma quello che dice Beppe Grillo, che PD e PDL si proteggono a vicenda pur di non toccare i loro affari. Molti vostri sms, ma noi vogliamo leggere quello di Romano da Ravenna, che dice: le aziende e le famiglie per sopravvivenza hanno ridotto costi e consumi, l'apparato non ha fatto nulla, comunque ce la faremo. Grazie Romano, è quello che noi pensiamo. Un saluto da Elisabetta Fiorito e da Vincenzo Miglietta.